English Bit di Giulia Crivelli. Recall: over a million Galaxy Note 7 phones still on after recalls. The Galaxy Note 7 is dead, and Samsung wants its potentially explosive phones back. But data shows plenty of owners are ignoring the warnings. Questa è la traduzione. Oltre un milione di Galaxy Note 7 sono ancora accesi dopo essere stati richiamati. Il Galaxy Note 7 è morto e Samsung vuole indietro, to want back, come in italiano, i suoi potenzialmente esplosivi telefoni, ma i dati mostrano che molti proprietari stanno ignorando gli avvisi di pericolo, warning. Il sito CNET, tra i più autorevoli e frequentati per le notizie che riguardano il mondo della tecnologia, titolava così un approfondimento sulla bufera che ha colpito la Samsung per le batterie che rischiano di esplodere dei Galaxy Note 7. La parola che ci interessa è recall, qui usata come sostantivo e al plurale, recalls. Letteralmente, come in italiano, significa richiamo. E to recall, verbo regolare, vuol dire richiamare. Ma gli usi sono tanti altri, spesso figurati. Quando si manda un invito, si usa fare il recall, che non è necessariamente una chiamata, ma un memo, quasi sempre via internet, per ricordare data e ora di un invito a pochi giorni dall'evento. Un altro significato è richiamare alla memoria. She has amazing powers of recall. Ha delle abilità incredibili per ricordare qualsiasi cosa, diremmo in italiano. To have total recall vuol dire ricordare qualcosa alla perfezione. Da qui il titolo di un film di fantascienza di qualche anno fa con Arnold Schwarzenegger, in cui la memoria delle persone veniva cancellata e poi reinstallata, meccanismo che poi si inceppava, come ricorderà chi ha visto il film. La parola può essere usata anche nello sport. Balotelli was recalled to play with the national team. Balotelli fu richiamato per giocare in nazionale. Un'altra parola che ci interessa del titolo di CNET è plenty, che significa molti ed è usato sia come pronome sia come avverbio. Plenty of eggs, plenty of money, plenty of time, un sacco di uova, di denaro, di tempo. They always gave us plenty to eat, ci hanno sempre dato tanto da mangiare. Plenty vale anche come sostantivo. Everyone is happier in times of plenty. Tutti sono felici in tempi di abbondanza.